Pirati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Va a destro il pareggio del Bologna, secondo gol con la maglia rossoblu. Numero ancora per Alessandro, buona l'accelerazione, buona anche il cross, Dybala, rete, rete, che gol Dybala, Juve in vantaggio, bellissima azione. Attenzione Insigne, destro, palo e gol, Lorenzo Insigne e sono 7 per lui in campionato, Napoli avanti a Verona. Palla dentro per Babacar, il cross in mezzo per Kalinic. L'assist di Babacar, la doppietta di Nicola Kalinic in un quarto d'ora alla Fiorentina, rimette tutto in parità. Oh, questa l'avevamo detto, era la domenica delle trappole, era la giornata delle trappole, un paio sono scattate, ci hanno lasciato le caviglie la Roma e la Fiorentina, se vogliamo anche il Milan, ma quello era un confronto diretto, difficilissimo, a Torino, se vogliamo anche il Sassuolo, che ha perso a Marassi contro il Genoa. Breve riassunto delle sei squadre che ieri pomeriggio erano davanti alla Juventus, fin qui una deve ancora giocare dell'Inter, quattro hanno perso. Io abbiamo lanciato anche su Twitter 800240024, giocano tutti ad aspettare la Juventus. Carlo Genta, Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport al telefono. Ciao a tutti. Ciao direttore. Direttore? Vi sento abbastanza male, però proviamo. Noi ti sentiamo bene, fortunatamente. Giocano tutti ad aspettare la Juve, o no? Sì, sicuramente sì. Io, francamente, lo pensavo da un po' che la Juve non era comunque fuori dai giochi di questo campionato e mi sembra che dopo una partenza lanciata, diciamo, di quelle di testa, un po' adesso si stanno a turno fermando. Tra l'altro, proiettandosi già avanti, lunedì prossimo c'è Napoli-Inter, per cui potrebbe essere teoricamente un altro turno in cui la Juve può portare via dei punti comunque a una delle due, o magari a tutte e due. Sì, anticipiamo l'obiezione: se questa sera l'Inter batte il Frosinone ha 9 punti di vantaggio e li conferma, e pesano così come peserebbero, certo. Pesano oggi 7 di distacco dal Napoli, perché il Napoli sta trovando una continuità di numeri oltre che di risultati mostruosa, però insomma il dato è quello che abbiamo detto all'inizio, e lo chiediamo anche a casa 800240024, siamo qui fino alle 19 se volete commentare con noi questa giornata di campionato. L'abbiamo lanciato 5 minuti fa, sondaggio su Twitter, e sta dando risultati sorprendenti. Juve in corsa. Juve in corsa per 7 dei nostri ascoltatori su 10. Che avrebbe rimontato era abbastanza prevedibile, però devo dire che quella di ieri sera con il Milan è stata una partita abbastanza didascalica, cioè nel senso due squadre brutta, orrenda, due squadre in difficoltà, il Milan non ha fatto nulla. La Juventus ha fatto solo poco di più, il dato positivo è che non ha preso gol come era abituata a fare nelle ultime giornate, ma non mi è sembrata una squadra particolarmente brillante e particolarmente in salute. Non so se la pensi così, direttore. No, ma hai ragione, solo che però io ricordo anche delle partite, anche quella di esordio contro l'Udinese, in cui si disse che invece la Juve ha avuto 15 palle gol e non era riuscita a concretizzarle, poi sull'unica avversaria aveva subito il gol, per cui ci sono dei momenti in cui costruisci tanto e porti a casa poco, e ci sono dei momenti forse più da grande squadra che invece capitalizzi quel poco che riesci a mettere insieme. Comunque mi sembra una Juventus che ha ancora dei margini di crescita, perché se così non fosse sarebbe grave, se così non fosse sarebbe grave, perché non mi sembra una squadra particolarmente brillante, ripeto. No, io intendevo dire, forse mi sono espresso male, margini di crescita importantissimi, sì, perché sì. Se tu hai, io reputo Morata un giocatore straordinario, per cui se tu hai un giocatore come Morata fuori, secondo me, rispetto a tutte le altre, hai ancora delle potenzialità che sono assolutamente ancora in effetto. Beh, questo sì. Sì, che sono inesplorate. Perché gioca Mandžukić, fisso e uno a turno sta fuori. Ma di fatto, secondo me, poi c'è l'altro elemento che è l'elemento da cui partire parlando di questa giornata di campionato, che ripeto non è ancora finita, perché questa è la domenica delle trappole, quindi questa sera osserviamo con grande attenzione Inter-Fiorentina, che è l'elemento umano, perché Allegri ha ritrovato la Juve quando forse l'ha fatta giocare nella maniera che è più logico che sia, e quindi senza il trequartista, se il trequartista è Hernanes. Secondo me devono riflettere qualcosina anche Garcia e Paulo Sousa. Dopo facciamo sentire al direttore Garcia di ieri sera. Paulo Sousa oggi inizia con fuori Kalinic, Ilicic, forse un po' troppo. Non te lo puoi permettere. Sì, sono d'accordo, anche tanto più se vieni, è vero, da due settimane in cui molti giocatori sono stati impegnati con le nazionali, però teoricamente proprio per questo devi cercare di rimettere insieme le cose che sapevi fare meglio, insomma, secondo me, per cui è sempre meglio ripartire dalle certezze, per cui sono d'accordo, queste sono partite in cui devi mettere in campo tutto quello che hai, e per quanto riguarda la Roma forse si deve interrogare Garcia, ma bisogna interrogarsi pure a livello arbitrale, perché giocare su quel campo è francamente una cosa quasi ridicola. Allora, vi faccio sentire Garcia di ieri, che ovviamente conosciamo tutti, però secondo me poi serve per fare un paio di riflessioni, e approfittiamo del direttore. Sentiamo Garcia ieri. Scusatemi, ma non c'è niente da dire questa sera su una partita di calcio, perché di calcio non c'è stato, è una parodia del calcio, ma non calcio. Era chiesto subito all'arbitro di interrompere la partita. Ovviamente, come si può giocare in condizioni così? Anche sul 2-1 per noi era possibile fermare la partita, perché non è calcio, è waterpolo con i piedi, forse qualcosa così. L'unica cosa positiva è che non ci sono stati infortunati, ma di calcio non se ne parla. Era chi spingeva la palla in avanti un po' meglio dell'altro, è come la lotteria, è caduto, lo spieghi, è caduto su pareggio, non è a me che dovete chiedere. Allora non posso rispondere di calcio stasera, grazie a tutti. Allora io vi dico come la penso, per carità, ieri non si doveva arrivare in fondo alla partita, però a parte che di partite sospese per impraticabilità di campo ormai se ne vedono pochissime, pochissime. Ricordatevi la neve di Istanbul. L'ultima chance, perché i calendari sono talmente intasati. Però possiamo dire una cosa, bene, direttore, intanto io voglio vedere Garcia sul 2-1 chiedere la sospensione della partita, 2-1 per la Roma. E poi io, se fossi nell'allenatore della Roma, mi interrogherei con grande attenzione sulla prima mezz'ora di una squadra che subisce dal Bologna quello che ha subito ieri la Roma, direttore. No, ma hai perfettamente ragione, perché ci sono due aspetti. Uno che riguarda il calcio giocato, e anche su quel campo impraticabile il Bologna ha giocato meglio, cioè ha capito qual era il modo per giocare, quindi cercando di alzare il pallone, cercando di far camminare il pallone piuttosto che mettersi là a fraseggiare, per cui il Bologna l'ha sicuramente capito meglio. Però io mi metto da parte degli spettatori, io credo che ci sia il diritto anche per chi paga fior di quattrini per andare a uno stadio a vedere una partita di calcio, quella di ieri è stata una partita in cui non c'era molto di tecnico, ma c'era molto, ripeto, di bagnato soltanto, per cui ecco, io lo dicevo più che altro riguardante i tifosi e gli spettatori. Per quanto riguarda la parte tecnica, sono d'accordo con te che la prima mezz'ora ad esempio non c'è stata proprio partita, il Bologna sembrava quasi avere due marce in più, non una. Roma sì, troppo fragile, eh? Roma fragile, Roma che fa venire fragile mille dubbi, anche se per carità le assenze pesavano, la Roma è stata toccata molto dagli infortuni, ieri mancavano Salah, Cervinho, mancava De Rossi. Roma senza Ali. Una squadra che ti dà la sensazione di poter prendere gol in qualsiasi momento, sia che è in vantaggio. Esatto. E quello per una squadra di vertice è sicuramente un limite, l'idea di essere comunque, come si diceva, fragile. Grazie direttore. Ciao Alessandro. Ciao. Grazie ad Alessandro Vocalelli, il direttore del Corriere dello Sport. Scrive un amico via WhatsApp al 349-238-6666, WhatsApp o SMS, fate quello che volete. Paolo, su un campo del genere vinci 2-1, la grande squadra una partita la porta a casa. Vero. E io d'accordo. Dico, a fine partita un grande allenatore evita di prendere la scusa. Sono d'accordo anche su questo. Di Rocchi, che ha sbagliato a tirare avanti. Comunque siamo qui, 800 24 00 24, traffico, poi ci sono già degli amici che ci stanno aspettando. Partita in bilico, spot per noi. Tutti con voi. Tutti convocati. E vengo anch'io. No, tu no. Anch'io, no, tu no. E perché? Perché no? Vabbè, noi stiamo dando il massimo per arrivare fino in fondo. Ora ci godiamo questa vittoria e poi a fine campionato vediamo. Siamo in ottima forma, stiamo giocando come ci chiede il mister, e lo stiamo facendo bene e ogni domenica scendiamo in campo per fare una grande partita. Scoprire che va sempre a finire. Questo è Insigne, eh? Oggi settimo gol di una stagione fin qui meravigliosa. Lancio anche un altro tema, va bene che ha fatto arrabbiare Conte. Ma magari, carissimo Antonio, ci si potrebbe anche venire incontro, parlare, perché Insigne oggi è stato tra l'altro meraviglioso nell'accettare gli insulti, è stato coperto per tutta la partita di insulti dal pubblico del Verona. E lui ha segnato ed è riuscito, ed è riuscito insomma a non reagire. 800 24 00 24, quindi il mio personalissimo premio oggi a Lorenzo Insigne. Mi fate sentire un attimo Ballardini che sta parlando su Palermo, ha fermato la Lazio. È giusto, hanno lavorato tanto tempo con l'allenatore precedente, quindi era giusto che fossero legati a lui. Noi siamo arrivati, abbiamo portato il nostro lavoro, le nostre idee e finisce lì. Studio. Questo Ballardini che oggi ha fatto 1-1 all'Olimpico contro la Lazio. Intanto sondaggio 71%, Juve in corsa su tutto, su Twitter ci trovate. Gianni, no, Carlo da Carbonia, Carlo. Dunque, eccoci. Io telefono, ciao. Da Carbonia. Ciao, io devo premettere che sono juventino. Sì. Parliamo sempre di regole. Allora, una regola l'ha stabilita a proposito dell'impraticabilità del campo. La famosa partita Perugia-Juventus del famoso scudetto non vinto, va bene, via dicendo. Mm. Quindi una volta che Collina ha stabilito quella regola che si gioca in un acquitrino. Ma non è vero, Carlo, le regole sono scritte, poi gli uomini possono sbagliare, interpretarle e applicarle. Però il campo era praticamente uguale a quello di Perugia, anzi forse Perugia era un po' peggio. E quindi si poteva giocare o no ieri? Sì, assolutamente sì. Vabbè, ma al di là di quello, se l'arbitro decide di far giocare, allora ieri il Bologna è stato più bravo a interpretare la partita su un campo che era banalmente uguale per tutte e due, no? È inutile che Garcia si vada a lamentare del fatto che l'arbitro doveva sospendere. L'arbitro decide quello che vuole e tu devi adattarti a questa situazione. Quindi non valgono alibi, non valgono scuse, secondo me. La Roma si è dimostrata, si è confermata una squadra fragile anche da questo punto di vista. Anche da questo punto di vista, se l'arbitro ti fa giocare, tu giochi e cerchi di fare in modo di giocare il meglio possibile su un campo difficile. Però Garcia non mi sembra particolarmente bravo nell'interpretare le partite ed eventualmente nel cambiare qualche cosa all'interno delle partite. Sì, ma poi c'è anche il paradosso che insomma la Roma ha giocato meglio il secondo tempo, quando il campo, se vogliamo, era anche peggiore. Esatto, perché nel secondo tempo, primo tempo sicuramente era oltre i limiti della praticabilità. Beh, innanzitutto eccoci. Grazie intanto, Carlo. Un cordiale saluto agli amici, Carlo, tutti convocati a Carlo, il weekend. Anche a Carlo, che aveva chiamato, Carlo. Un saluto, certo. Beh, il saluto era un saluto indistinto agli amici che chiamano. Sì, però, anche a Carlo, a Carlo Genta. Senatore Gasparri, non dovete prenderla sempre con l'arbitro, con Rocchi. Allora, io penso sia auspicabile. Cerca una parola, lei che è sempre misurato. Appunto, sono qua per dire questa parola. Io penso sia auspicabile tendere la mano sportivamente all'arbitro, che è pur sempre un essere umano, tutto sommato, anche se è Rocchi. A parte che la partita andava sospesa. Se mi lascia parlare Capuano sarebbe molto meglio. A parte la mancata espulsione di Mirante, che ha preso la palla quasi a centrocampo, questo l'hanno visto tutti. A parte un rigore non concesso per evidentissimo fallo di mano di Diawara, per il resto io posso dire con assoluta pacatezza, per carità, sobrietà a Rocchi. Con assoluta pacatezza, ripeto, tranquillità. Ma vedi, senatore, mantenga la calma. No, anche perché tra l'altro c'erano anche gli altri episodi, quelli in cui il Bologna è stato. Aspetti, stia lì un attimo. Fabio da Napoli, Fabio. Sì, salve, buonasera. Aspetti che vi facciamo sentire Montella, che ha perso alla prima i microfoni di Sky. Ripresa a giocare, sicuramente c'è tanto da lavorare, sicuramente sull'autostima dei calciatori c'è molto da lavorare, perché possono fare molto di più di quanto ho visto anche oggi, e quindi sicuramente bisogna avere fiducia in loro, io ce l'ho, e loro devono credere un po' di più in se stessi. Alessandro Alciato, perché qui insomma c'è tutto un racconto che parte da un romanzo che Montella vorrà accantonare il prima possibile, che è quello legato al suo passato, presente e futuro. Insomma, Montella e la Samp non sono un accoppiamento così normale. facile. Non può non portare con sé anche il romanticismo. Ale? Sì, intanto volevo farvi vedere un'immagine che a me ha colpito molto, è stato anche l'applauso di tutto lo stadio, uno stop di petto di Vincenzo Montella su un pallone. Sì, questa è stata, oltre che la domenica delle trappole, ieri abbiamo visto Mihajlovic palleggiare, Allegri colpire di testa e rimandare la palla in campo, c'è anche lo stop di Montella, tutti discreti giocatori. Fabio da Napoli, Fabio. Sì, buonasera. Eccoci. Salve, io vorrei fare due considerazioni sul Napoli. Naturalmente chiamo da Napoli, sono tipo di Napoli, da me è sempre detto che se uno chiama da Napoli fa per il Napoli. No, comunque sì, volevo fare due considerazioni. La prima è sugli ex allenatori del Napoli che non se la stanno passando bene, nel senso vedi Benitez e prima ancora di Benitez Mazzarri, che dopo che è andato via da Napoli non sono più riusciti a riconfermarsi. E poi volevo allacciarmi alla però posso dirti una cosa, Fabio, su Benitez no, ma su Mazzarri secondo me il lavoro di Mazzarri a Napoli sottovalutato anche dai napoletani. Sì, però Mazzarri vuole andare così. Via lui, diciamo, nel senso gli avevano proposto il contratto e lui non è voluto restare a Napoli, ha preferito andare a Milano, nel senso questo ci può anche stare, ci poteva anche stare. Però se tu inizi un progetto, nel senso a Napoli ha iniziato un progetto, forse se fosse rimasto a quest'ora avrebbe ottenuto qualche risultato. Io posso posizioni. Non lo possiamo sapere. Il Napoli è la grande promossa di questa domenica. L'unica grande promossa. Volevo dire solo una cosa sul tifo in generale, proprio che sia napoletano, che sia veronese, a me non interessa. Io parlo sempre a 360 gradi. Ma è sempre così logico prendere in giro le altre persone che siano tifosi di un'altra squadra, diciamo sulla provenienza, che siano napoletani o veronesi non interessa. Non lo so. Però sarebbe più bello un calcio più pulito, nel senso che Fabio, possiamo dire una cosa: quello che è successo oggi a Verona non è stato bello e purtroppo non è nemmeno stato inedito. Poi adesso ci chiameranno centinaia di tifosi le altre squadre che ci dicono: guardate che a Napoli non è una passeggiata di salute, ed è vero anche questo, Fabio. La cosa un po' incoerente è che tutto questo avviene quando ci si mette la mano sul cuore, si canta la Marsigliese, perché insomma è stato anche un fine di settimana particolare per sentimenti, per emozioni, poi finisce la Marsigliese e ricomincia il tappeto sonoro che abbiamo vissuto anche oggi. Quando non ci si picchia alle partite dei bambini. Non ce ne libereremo mai. Grazie Fabio. Gianni da Pistoia. Gianni. Sì, buonasera. Eccoci. Senta, volevo domandare una cosa a voi, siete più competenti di me, senz'altro. Ma questa Juve, no? A me mi sembra, visto anche ieri, Hernández completamente fuori ruolo, no? No, Hernández più che fuori ruolo, inadatto per fare il trequartista. Mi sembra un giocatore anche in totale confusione. Mi sembra veramente spaesato. Al di là del ruolo, mi sembra un giocatore che in questo momento è in uno stato emotivo non semplice. Prego, Gianni. Dicevo che Allegri dovrebbe ringraziare questo fenomeno che è Dybala, perché le uniche cose belle si vedono da Dybala. Sono tutti giocatori che sembrano quasi tutti fuori ruolo. Allegri non ci ha capito nulla, secondo me. Ma tu continui a dire che Dybala è normale, che non è pronto. Voglio sapere cosa ne pensate voi. Io non lo dico, i numeri. Penso che in realtà Dybala, a parte quei 10 giorni in cui ha giocato meno, ha giocato sempre. Quindi Allegri si è accorto della questione. Come giusto che sia. Poi io assolvo Allegri, perché gli è stato consegnato un giochino complicatissimo da mettere insieme, perché Cuadrado non si sposa con tre prime punte, perché se prendi Hernández vuol dire che hai in mente un trequartista, tra l'altro non top, e col trequartista non deve giocare Cuadrado, quindi non è tutto semplice. Quello che gli hanno consegnato, scrive un amico via WhatsApp al 349-238-6666, Hernández, Khedira, Lemina, tutto il centrocampo della Juve è un reparto in difficoltà perché i nuovi acquisti non sono affidabili. Ed effettivamente lì si è perso tanto perdendo Pirlo e Vidal. Vabbè, si è perso tanto perdendo Pirlo e Vidal, ma ora è quasi il momento di non ricordarli neanche più, nel senso che A me non sembra che il materiale umano a disposizione di Allegri sia scarso. Sono d'accordo con Giovanni quando dice che Allegri merita un po' di pazienza. Sono altrettanto convinto del fatto che sia il momento di fare delle scelte, perché sia il momento di fare delle scelte sia per quanto riguarda la composizione della coppia d'attacco che per quanto riguarda, salvo infortuni, perché Khedira è infortunato, non giocherà neanche col Manchester City, eccetera, però si tratta di capire quale sia la composizione della Juventus. Hernanes o non Hernanes, Cuadrado o non Cuadrado, io credo che Allegri debba banalmente scegliere un 11 tipo, un modulo tipo, e almeno per un po' andare avanti con quello fino a quando non sarà fuori dalle difficoltà. Sì, credo che con ieri alcune scelte siano state fatte. 800 24 00 24, adesso ci fermiamo per un minuto, aspettiamo Paolo Sosa dopo il deludente pareggio della Fiorentina contro l'Empoli. La domanda è: stanno giocando tutti per far rientrare la Juventus o no? Torniamo. Non è calcio, è waterpolo con i piedi, forse qualcosa così. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Like a dog who's gone insane, you're putting me down, down, down. Numero ancora per Alexandro, buona l'accelerazione, buona di cross, Dybala, rete, rete, che gol Dybala, Juve in vantaggio, bellissima azione. I'm coming. Forse non è stata una bella partita sotto l'aspetto tecnico, però dire che l'importante era raggiungere l'obiettivo, che era quello di vincere la partita, superare il Milan, fare la terza vittoria di seguito. E ora tuffiamoci nella Champions sperando e cercando di chiudere il discorso qualificazione mercoledì. Lo parleremo a fine dell'anno, adesso il campionato è ancora lungo, perciò passiamo partita per partita. Ma era l'obiettivo iniziale, arrivare fra le prime tre, cioè il nostro obiettivo è arrivare tra le prime a giugno. Troppo presto, oggi è stato un turno favorevole al momento perché abbiamo rosicchiato 2 punti alla Roma, dobbiamo fare ancora altre vittorie, quando in seguito devi cercare di non sbagliare mai e quindi è sempre più difficile. Normale che se ne anelli un po' di vittorie, qualche punto lo recuperi sicuramente. Tanti punti sono diventate anche 2 sulla Fiorentina, 3 sul Sassuolo, erano 3 anche sul Milan. Classifica: Napoli-Fiorentina 28, Inter-Roma 27. L'Inter manca ovviamente questa sera ore 20:45 contro il Frosinone. Sassuolo 22, Juventus 21. Juventus che è rientrata prepotentemente in zona Europa, sì, non è poi così lontana dalla zona Champions League. C'è un amico che dice sarà comunque durissima per la Juve rientrare per il terzo posto, perché devono svenire 2 tra Inter, Roma, Napoli e Fiorentina. Però, questo, insomma, è corretto. 2 in questo fine settimana hanno cominciato ad accusare qualche malore. 800 24 00 24. Claudio da Milano. Claudio. Sì, eccoci. Eccoci. Niente, io volevo parlare del Milan. Nel senso che qualche anno fa, non so, si è venduti 3 giocatori che erano 3 campioni rispetto ai ruoli. Sì. Thiago Silva, Pirlo e Ibrahimovic. Questi 3 giocatori facevano la squadra. Dopo non è stato speso il doppio di quello che si è realizzato vedendo quei 3 giocatori lì. Per poi avere una squadra che è una tristezza, da milanista veramente mi viene il magone pensare che oramai San Siro è il terreno di conquista. Depressa e deprimente, sì. Deprimente, l'Atalanta sembrava Barcellona, sembrava contro il Milan, una cosa proprio che non se ne può più. Dico, forse non sono un po' fuori dal tempo il presidente, il vicepresidente, come lo sono forse anche nella società attuale. Sarebbe il caso proprio di cambiare gestione, cambiare presidente. Claudio, c'è sempre un problemino. C'è sempre un problemino che tu poi un presidente di una società di calcio lo cambi il giorno in cui qualcuno subentra e compra. Vedremo. Certo. Vedremo. Stiamo aspettando, ve la stiamo raccontando. Ma ne vuole troppo. Vuole uno proposito per una squadra che forse non ha parco giocatori, non ha rosa, ha il suo prestigio. Se ne vuole così tanti, è difficile che arriverà qualcuno che lo compra. Cioè, forse siamo in gabbia, siamo legati a quest'uomo che è stato grande, come presidente di calcio, Edson Gravio come imprenditore, e che oggi vuole, o lui o forse la famiglia, uno sproposto. Beh, ma a quanto pare c'è qualcuno che era disposto a dargli, no? Evidentemente, se sta trattando a quelle cifre, non lo so, Claudio, c'è anche chi dice Cerci l'anticalcio, insomma, a me non è... Ieri nel grigiore del Milan non mi è sembrato il peggiore. C'è un altro amico che scrive 349-238-6666: mettiti Thiago Silva e Ibra al posto di Alex e Bacca e poi vedi che Milan. Sì, però, metti Rivera al posto, ma certo, ma di Montolivo, vale, e magari vale anche per il Milan come per la Juventus, no? Il partito delle vedove, sì, è sempre operativo. Ma poi stiamo parlando di un'altra era, stiamo parlando a questo punto, certamente Thiago Silva e Ibrahimovic. Sì. Guidone Vaciago, ciao Guido. Ciao, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Tutto Sport che scrive oggi, editoriale del direttore Paolo De Paola in prima pagina, è tutto riaperto e ha ragione. Poi insomma anche la Fiorentina oggi qualche conforto l'ha dato, o no? Mamma mia, che campionato strano e imperscrutabile. Eravamo talmente abituati negli ultimi anni a quest'epoca iniziare a dire ma la Juve o chi andava in fuga sarà prendibile, che non siamo più abituati a orientarci in questo classifica, bellissima peraltro, bellissima. Secondo me sì, è riaperto, dopodiché la Juve deve fare molto di più se vuole nutrire speranze di quinto scudetto consecutivo. Sì, perché sì. Ieri il Milan è stato grigio, anche la Juve per un'ora non è stata bella. Penso sia arrivato qualche verdetto, ad esempio quella sostituzione di Hernanes all'intervallo, probabilmente Allegri si è convinto che la Juve deve essere diversa o no, cioè dobbiamo aspettarcela così già da Manchester, dalla partita col Manchester? Ma me lo auguro, nel senso che a questo punto... A parte che non c'è Hernanes perché è squalificato, ma diciamo in generale, Guido? Esatto. Io credo che il fatto di giocare col trequartista senza avere il trequartista sia un esperimento metafisico che ormai si può archiviare, perché Hernanes non è il trequartista che si aspettava Allegri, ammesso che Hernanes sia un trequartista. È un giocatore che ha avuto un'involuzione negli ultimi anni incredibile, perché chi se lo ricorda ai tempi della Lazio era un'altra cosa, ma lasciando perdere Hernanes e tornando al sistema di gioco della Juve, sono d'accordo, la Juve ha il 3-5-2 che è stato definito coperta di Linus, però è una coperta di Linus che scalda bene, perché mi sembra che comunque la squadra si trovi, e ieri nel secondo tempo c'era anche una parvenza di gioco, oltretutto con questo Alexandro, altro giocatore da scoprire, che è stato determinante. Quindi io credo che la Juventus o con il 3-5-2 o con una variante del 3-5-2 che potrebbe essere un 4-3-3, comunque con gli attaccanti larghi, possa in qualche modo ritrovare un po' se stessa, e ritrovando se stessa, ritrovando il gioco, io credo che gli uomini li abbia. Dybala non avevamo dubbi fosse un campione e lo sta dimostrando, adesso deve fare il salto di qualità che è chiesto a quelli giovani come lui, cioè essere continuo. Pogba si sta ritrovando piano piano, un passettino alla volta, se smettono di dirgli che deve essere lui il leader forse ancora meglio, perché lui leader in questo momento non lo è e forse non lo sarà mai, è una questione anche caratteriale, ma i giocatori ci sono, se si trova un filo conduttore, un filo logico per metterli in campo, la Juve potrebbe avere delle serie aspirazioni a lottare per il titolo. Certo, il Napoli gioca molto meglio, sì. La Fiorentina gioca molto molto meglio. Sì, sì, la Fiorentina gioca meglio, ecco. oggi neanche tanto. La Fiorentina ne ha 11 e oggi l'ha dimostrato. Esatto. Io non considero la Fiorentina un'avversaria per il titolo, poi è chiaro che a Firenze si arrabbieranno, però insomma, secondo me gioca un calcio meraviglioso, il migliore d'Italia insieme al Napoli, però sinceramente io non credo sia un'avversaria per il titolo. Il Napoli invece sì, mentre la Roma dà segnali di cedimento, l'Inter l'aspettiamo questa sera con il Frosinone, ma è una squadra estremamente solida. Insomma, le squadre sono queste, ripeto, il Napoli è quello che oggi ha dato la risposta più convincente. Quanto alla Juventus, per Allegri credo sia il momento delle scelte, poi quali esse siano lo vedremo. È il momento delle scelte e anche di recuperare un po' di condizione fisica. La Juventus mi sembra ancora particolarmente indietro, al di là degli infortuni, come condizione. Sì, è vero, è vero. Considera che quando si gioca male si corre anche male. Quando si hanno delle linee di gioco precise, spesso si dà l'impressione di essere più in forma perché si corre in maniera più logica. Però sì, la Juve non è proprio in formissima. D'altra parte, quest'estate folle che è stata messa sotto accusa nelle scorse settimane per gli infortuni, tra un po' verrà messa sotto accusa anche perché potrebbe esserci un po' di fiato corto. La Juve ha tante alternative, devo dire che questo dà un minimo più di sicurezza ad Allegri rispetto al povero Paolo Sosa, che appena provato a fare un po' di turnover ha preso due gol dall'Empoli. Allegri ha giocatori da far ruotare, si è permesso il lusso di lasciare in tribuna Khedira perché aveva un dolorino. Beh, ma salterà anche il City, no? Non so se era qualcosa di più serio. Anche perché il ragazzo è delicatino e quindi a questo punto hanno deciso di gestirlo con più accuratezza dopo le ripetute ricadute che ha avuto durante la stagione. Però per esempio Sturaro, che all'inizio della stagione era un po' opaco, sta ritrovando un po' la brillantezza che aveva avuto nella seconda parte della scorsa stagione, in cui era sembrato a tutti un centrocampista molto promettente. Marchisio sta trovando la sua continuità, però di alternative ce ne sono, sia a centrocampo che in attacco, insomma. Sì, a centrocampo forse scende di un tono di troppo la qualità con le alternative, lo dicono anche i numeri, del resto la Juve non ha mai perso con Marchisio, che dire, Pogba, appena uno o due di questi sono saltati, i problemi ci sono stati. Grazie Guido. Ciao Guido. Grazie a voi. Alla prossima. Stiamo ancora aspettando Paolo Sosa, che ci racconti il perché di questo 2-2 tra Fiorentina ed Empoli. Ci sta pensando anche lui. Facciamo in tempo a fare Roberto da Milano. Roberto. Buonasera, caro Genetti, a lei. Dica. Come la trasmissione? No, io dicevo in generale per del Milan. Sì. Appunto, è stato proprio una partita grigia, cioè non si è risolto niente. Ogni anno cambiano, ma giocatori, appunto, come dicevo l'altra volta, anche Saponara era da tenere, l'ha mandato via. Insomma, cioè, è sempre in confusione la società. E poi riguardo anche all'allenatore, cioè, io la vedo così. A me vedo benissimo, ad esempio, Roberto Donadoni o Maurizio Sarri. Sono andato a scegliere questo Mihajlović, adesso non dico che le colpe sono tutte sue, però non lo so, c'è sempre... Non lo sa nessuno, neanche Mihajlović, che non è fino ad ora riuscito a portare il Milan da nessuna parte, perché io non vedo grandi differenze tra questo Milan, quello dell'anno scorso con Inzaghi, quello dell'anno precedente con Seedorf e con Allegri, anche rispetto a quel Milan ci sono più punti grigia. Però sì, è una squadra che sembra non dare prospettive, ma ne parliamo subito dopo il traffico, perché ci raggiunge, se ci raggiunge, la Cassazione sul Milan. Franco Ordine, traffico su Dybala uguale, è la giocatore che aveva giocato più minuti di tutti, è una settimana che Allegri non fa giocare Dybala, cioè per farlo giocare di più bisognava che lo portassi con me a fare le partite a calcetto quando giocavo tra amici. Tutti convocati. Tutti convocati. Stavo pensando cosa penserà adesso mio amico Florentino a Madrid, è così tutto il mondo. 4-0 ricordiamo 4-0 del Barcellona nel classico. La tensione, ma poi Arrigo è stato a fare il direttore del football del Madrid, quindi sa bene che tutti gli ambienti, quando sei in una grande società, in una grande squadra e non arrivano i risultati, ma ultimamente al Milan sono arrivati, un po' di tensione c'è per forza, è chiaro ed evidente che quando l'asticella si alza anche la tensione. Questo era Gagliani prima della partita, risposta a Mihajlović a questo clima strano denunciato intorno al Milan, le critiche, basta una sconfitta perché sia un dramma. Gagliani gli risponde: caro Sinisa, se arrivi in un grande club come è il Milan ti devi abituare, se arrivi in ritardo, caro Pierluigi Pardo, in studio, ti devi abituare che non c'è la sedia. 800 24 00 24, in anticipo. Allora, gli amici a casa, prenotatevi adesso 800 24 00 24, perché dopo il GR delle 18 siamo qui e passiamo più telefonate possibili. Intanto saluto Franco Ordine, ciao Franco. Eccomi qua. Arrabbiato Gagliani prima e dopo, secondo me, ma anche prima, perché questa risposta Mihajlović, insomma, significativa. No, ma non penso che prima fosse arrabbiato. Penso che abbia come dire, fatto capire a Mihajlovic che uno che allena il Milan non si può e non si deve lamentare delle critiche, anche se le considera severe, eccessive, anche perché poi il calcio è talmente una livella, per dirla alla Totò, che poi ti fa capire e ti fa conoscere qual è la realtà. E cioè, se tu prendi giustamente le critiche perché hai fatto uno 0-0 orribile contro l'Atalanta, siccome poi non hai la bacchetta magica, è impensabile, è improbabile che poi dopo due settimane vai a Torino e fai la partita delle partite. E infatti l'espressione calcistica del Milan di sabato sera è stata non modesta, ma addirittura mediocre. Beh, però sì, magari qualche miglioramento era auspicabile, Franco. Certo, non c'è stato, infatti, secondo me. Tutto qua, rispetto a che cosa? Rispetto all'Atalanta, cioè ieri sera io ho visto un Milan pessimo. Sì, vabbè, ma certo che c'è stato un qualche miglioramento, però voglio dire, insomma, ma non è questo il Milan che tutti noi aspettavamo e che era lecito attendersi dopo che erano state decantate le virtù dell'allenatore e soprattutto dopo che era stato fatto un ingente investimento in campagna acquisti. Io dico, oggi a guardare la classifica, il Sassuolo che è davanti al Milan, secondo voi ha una cifra tecnica complessiva superiore a quella del gruppo del Milan? No. No, però gioca molto meglio a pallone. Gioca a pallone. Ieri Milan non ha tirato in porta. E io credo più preoccupante roba, quello dai, che dai, è stato visto ieri del Milan. Roba, Milan. Cioè, beh, sì, mi sembra insomma una squadra che fatica a esprimere una sua forza, una sua abitudine alle vittorie. Mi sembra una squadra anche dal punto di vista psicologico abbastanza fragile, anche non troppo fortunata in certe situazioni, ma la fortuna qui diventa quasi un aggravante, no? Nel senso che poi alla fine è proprio, non lo so, la vedo in grande difficoltà. Insomma, aveva dato una sensazione di crescita contro la Lazio, ma poi onestamente abbiamo visto le partite successive della Lazio, abbiamo capito che forse c'erano pure i demeriti della squadra di Pioli. Sì, Lazio 3 punti nelle ultime 6 partite per gli amanti della statistica, dentro c'è stata anche la sconfitta contro il Milan. Franco, la domanda che lanciamo agli amici a casa è se abbia più colpe Mihajlovic o abbia più colpe chi ha speso male i 90 milioni, perché c'è anche questo tema su cui si può riflettere. Tanto lo so che il tema è questo. Allora, io faccio questo ragionamento. È evidente che il Milan si è fermato a metà della rivoluzione e non l'ha completata, perché questo era un mercato in cui la squadra andava completata con altri inserimenti, per motivi che si lasciano immaginare, perché non era pensabile spendere una cifra mostruosa dopo quella già spesa. Si sono fermati a metà del guado e quindi diciamo l'opera è rimasta incompleta. Ma nonostante tutto ciò, era pensabile, era auspicabile ed era francamente pronosticabile una maggiore resa dal punto di vista calcistico, dal punto di vista anche diciamo della personalità di questa squadra. E questo ce l'hai solo e soltanto a una condizione: se tu hai un copione da recitare tutte le domeniche. Io oggi ho visto l'Empoli a Firenze. Ebbene, l'Empoli, che pure è passata da Sarri a Giampaolo, che ha venduto quelli che doveva vendere per fare cassetta, eppure l'Empoli per circa un'ora ha tenuto banco dal punto di vista del gioco. Perché? Perché dispone di un copione. Poi gli interpreti naturalmente possono essere leggermente più bravi o leggermente meno bravi, però quando tu hai il copione, hai diciamo il vero tesoro, è quello lì. Quindi tutti più bravi di Mihajlovic. Non dico tutti, dico che era auspicabile e pensabile che potesse dare uno stile di gioco e un copione calcistico migliore rispetto a quello che è stato dato finora. È vero che Montella era fra, insomma, che c'era stata qualche telefonata, da quello che tu sai, qualche sì, SMS. Che Montella piacesse si sapeva ed era, ma sempre soltanto per quello stesso motivo, perché si cercava uno capace di dare un bel gioco alla squadra. Poi quando si è capito e si è saputo che lì c'era da superare quello scoglio incredibile della clausola, a quel punto non hanno nemmeno proseguito nella discussione, perché conoscevano il carattere la determinazione della Valle. Ben inteso, lo sconto l'hanno fatto alla Samp, certamente non l'avrebbero fatto al Milan. Buonasera, innanzitutto Presidente. Un saluto cordiale a Franco Ordine, che io considero a tutt'oggi uno dei giornalisti più positivi e più coesi in Italia. Franco, buonasera. Saluto ci dice qualcosa il giorno dopo? Devo dire che la squadra... Com'è un giornalista coeso, dottore? Io sono sempre stato molto coeso. No, un giornalista coeso, come, cioè, in che cosa si che, ad esempio, che non lo interrompe, ad esempio. Lei mi poi se vuole le spiego in che modo si estrinseca questa coesione di Franco Ordine. Ci dice qualcosa su ieri sera, sulla partita. Sì, parlare della partita. Ho visto un'ottima squadra con un'ottima organizzazione di gioco. La Juve. La mia squadra, ovviamente, non faccio lo spiritoso, un attacco molto frizzante e effervescente. Ma per esempio, ho visto un ottimo Cerci, sgusciante, pericoloso, sempre presente. Ma se ha tirato fuori l'unico cross che è arrivato. Scusi, Franco. Ma non è che per caso le hanno fatto vedere la cassetta di un Juventus Milan d'altri tempi? Franco Ordine è sempre molto perspicace. Esattamente. Comunque, Franco, tu sai benissimo, Cerci è così avanti col pensiero che supera le sue stesse intenzioni. Poi bisogna ricordarsi che ci vuole un grande pennello e non un pennello grande. Comunque lei filosofia. È contento, apprezzato. Io sono molto contento, soprattutto vorrei spendere una parola per il nostro grande allenatore, che sta dimostrando tutto il suo valore, un tecnico sempre votato al gioco d'attacco. Quindi, complimenti per l'ottima organizzazione di gioco del nostro allenatore Massimo Allegri. Ma no! Ciao Franco, dobbiamo andare sul GR. Franco Ordine 800240024 dopo il GR, prenotatevi. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo! Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20:30 all'Auditorium Gruppo 24 Ore, in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il forum dedicato all'evento. Ciao! Tutti convocati. E vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. E vengo anch'io. No, tu no. Perché? Mettere accento sulla formazione, visti i cambi che ha fatto nel secondo tempo e visto il secondo tempo della Fiorentina, rifarebbe la stessa formazione di inizio partita? Dopo vedere la prima parte? No, certo di no. Per questo l'abbiamo cercato di correggere, ma uno quando pensa alla squadra, pensa, perché è convinto che per ogni partita quelle che scegliamo hanno la percezione di quelle che dobbiamo fare per essersi dominanti. Io ripeto quello che dico, che ci sono due allenatori per motivi diversi, Paolo Sosa e Garcia, che devono fare delle profonde riflessioni. Paolo Sosa che gioca senza Bernardeschi, Kalinic, Ilicic tutti insieme, evidentemente insomma dà un segnale che la squadra recepisce e gioca il primo tempo di oggi contro l'Empoli. Garcia che se la prende con Rocchi per l'ennesima volta. Garcia, quando l'arbitro non gli piace parla dell'arbitro, quando l'arbitro gli piace dice che non parla dell'arbitro, e secondo me omette di ragionare sulla prima mezz'ora inquietante della Roma nella piscina di Bologna. 800240024 La Fiorentina non può permettersi un turnover di questo. Sì, la Fiorentina non può permettersi turnover, lo potrebbe fare magari più in Europa League, magari. Sì. mentre per quanto riguarda la Roma, l'approccio alla partita di ieri è stato sbagliato, completamente sbagliato, perché sicuramente ha ragione, insomma, in questo Garcia, non si poteva giocare, cioè non è calcio, questo è vero, però è anche vero che date quelle condizioni lì, ti devi adattare. Il Bologna l'ha fatto molto bene, è chiaro che è anche più facile per una squadra un po' meno tecnica riuscire a farlo, però insomma un giocatore come Dzeko è adatto per quel tipo di caratteristiche, no? Non gli è arrivato un pallone in tutto il primo tempo, quindi secondo me ci sono degli errori, della non mai, però, ci sono degli errori. La Roma non ha mai l'aria di una squadra che veramente può vincere lo scudetto. A me alla fine riesce a convincere. Io sai secondo me chi lo vince, per cui sì, ma anche per me è chi lo stravince, anzi non chi lo vince. Sì, però che Napoli vedremo, lo possiamo anche chiedere agli amici da casa, noi abbiamo questo sondaggio aperto anche su Twitter, 71% Juve perfettamente in corsa su tutto, per il restante 29% invece no, è troppo tardi. Il tema però è, stanno giocando tutti per tenerla un po' in corsa la Juventus. Sì, beh, insomma, però la Juve adesso è anche lei che si sta rimettendo in corsa, nel senso che adesso è arrivata a 3 vittorie consecutive, nessuna delle quali particolarmente brillante. Quella col Torino, lo ricordiamo, fu la prima e arrivò proprio nei secondi finali di gara dopo una partita molto complicata. Ad Empoli non è che si sia vista una Juve strepitosa, e anche ieri, per cui neanche. Però questo, se vuoi, è un aggravante in positivo, no? Nel senso che comunque aver vinto queste 3 partite senza aver brillato così tanto potrebbe essere molto utile. Io penso, vabbè, a parte quello che penso del Napoli, cioè che Napoli sia per me nettamente la squadra più forte del campionato, e se non avesse avuto quella partenza, diciamo quel rodaggio con Sarri, già la vedremo in fuga da parecchio, visto che per esempio ha recuperato 7 punti all'Inter, se togli le prime 3 giornate. Però ovviamente è tutto da vedere, c'è Napoli-Inter, insomma, però la mia sensazione è che sia la squadra più forte e continuo a darmela. Per quanto riguarda la Roma secondo me è una squadra che può fare grandi partite, l'ha dimostrato con Leverkusen andata e ritorno, però fa ancora troppi errori individuali, cioè ci sono ancora troppe falle. E allora Rudiger sbaglia a Leverkusen, Szczęsny non dà sicurezza, Torosidis ieri fa un casino pazzesco, cioè è una squadra che ha delle qualità enormi, perché se tu ci pensi, ieri giocava su quel terreno lì senza, a parte Totti, ma senza Salah e Gervinho, senza De Rossi, senza Strotto, cioè se tu sommi il talento della Roma, difesa esclusa, certo, secondo me fa una grandissima squadra. Sì, c'è anche Napoli-Roma, prima di Natale, sì, oltre a Napoli-Inter. Però se non hai continuità non mi ci ascolti. No, assolutamente. 800 24 00 24, prenotatevi, andiamo avanti fino alle 19, quindi chiamate il centralino, vi prenotate come hanno fatto Giovanni, Angelo e Roberto. Partiamo da Giovanni, Giovanni da Milano. Giovanni, sì, eccoci. Sì, ciao. Niente, io ho 65 anni. Ti ha prestato il telefono Pardo? Sì. No. Sì, esatto. Aspetta, stai lì che ti riagganciamo. Angelo da Napoli, Angelo. Ciao, buonasera. Eccoci. Ciao. Buonasera. Complimenti per la trasmissione innanzitutto, sempre piacevole e divertente. Grazie. Siete sempre divertenti e piacevole ascoltarvi. Ovviamente da Napoli volevo parlare un attimino del Napoli. La domanda principalmente era questa, ma sento tanto entusiasmo, io per primo, però... facendo il Napoli come squadra favorita, che gioca meglio. Io però su Sarri ho le mie perplessità per come è iniziato, ma non in termini di risultati, proprio in termini di modulo che voleva imporre alla squadra, di alcuni ruoli di alcuni giocatori. Io credo che nel calcio oggi fai veramente fatica a inventarti qualcosa. Quindi, però è segno di intelligenza cambiare. Ha cambiato, ha aggiustato la squadra, la squadra ha cominciato a volare. Quindi questo, sì, questo è un pregio. Però oltre a dare qualche perplessità, do anche meno di alzare, ci manca il caso. Però il fatto di, a parte che vedo pochi ricambi sulle fasce in difesa e campo, dove se al netto di Higuain, se si spacca uno del centrocampo, sì, anche lui aveva il tuo telefono, Pier. Sì, sì, è una epidemia. Un'epidemia, per carità, ma il Napoli aspettiamo quando calerà leggermente, magari in Higuain e Insigne che hanno una continuità mostruosa, però evidentemente è quello oggi che si fa preferire a tutti. Vediamo se Giovanni da Milano l'abbiamo recuperato. Sì. Giovanni? Sì, ci sono. Eccoci. Scusami. Sì. Siccome sto preparando il forno perché devo fare le piste, quindi avevo messo la voce. Vabbè. Dici. Niente. Margherita io, per me. Io grazie. È la prima volta che chiudo il telefono, cioè la televisione prima della finale della partita, perché sì. Il Milan gioca in un modo che non è da Milan, comunque non è da Milan. Che stai facendo? Che succede? Sta preparando, c'è una colluttazione o stai facendo il risotto? Le pizze, sto preparando il forno per fare le pizze. Vabbè, ma ho capito, ma nemmeno così. Vabbè, fai, tranquillo. No, vabbè, scusami. No. Che pizza mi consigli? Stasera faccio salsicce e friarelli bianca con di peperoncino. Roba seria, salsicce. Oh, salsicce e i friarielli, bravissimo. Ci metti sopra il bollito di Mihajlovic. Abbiamo capito che non ti piace il Milan. Non Mihajlovic. C'era Donadoni libero, e potevamo prendere Donadoni. No? Ragazzi, ve lo posso dire una cosa, adesso va bene tutto. Nel senso, Mihajlovic, insomma, noi non è che ho iniziato oggi a far lavorare, non era esattamente la mia prima scelta. Nel senso, secondo me, ma io lo vedevo poco adatto al Milan per un motivo fondamentale, perché il Milan, come dice il signor Mercu, da sempre prova a essere padrone del campo e padrone del gioco. Il padrone del gioco, ecco. L'hai detto quasi bene. E da questo punto di vista Mihajlovic è un allenatore più di carattere, secondo me, che di qualità estetica. Quindi lo vedevo poco adatto. Detto questo, adesso prendersela col Milan perché ha preso Mihajlovic, bisognava dirglielo 5 mesi fa. Cioè, secondo me questa cosa qui è abbastanza ingiusta. Poi è ovvio che Sarri sta andando meglio di Mihajlovic, è ovvio che Donadoni sta andando bene, ma Donadoni un anno fa col Parma, prima ancora di tutti i casini societari, era l'ultimo in classifica, e lo dico col massimo del rispetto. Cioè, veramente il calcio è roba molto liquida, e secondo me alla fine prendersela col Milan sul fatto che abbia preso Mihajlovic, non lo so, bisognava farlo mesi fa. Tutti gli altri hanno ragione, che sia Donadoni, che sia qualunque altro allenatore. Io però non trovo differenze tra questo Milan e le due versioni precedenti. No, ma anche a livello numerico. Secondo me il numero peggiore è quello dei gol subiti, 17. Questo è quello di Inzaghi, che tutti dicevano non è un allenatore incapace di organizzare la fase difensiva. Il numero dei gol presi è lo stesso, siamo in ritardo per c'è il traffico che Capuano mima con un gesto inequivocabile. C'è Valeria Bernardi dietro il vetro che fa gesti minacciosi, oltre che perché brava è tifosa Valeria. Romanista brava. Perché siamo in ritardo sul traffico. Subito, pubblico caldo. Tutti convocati. Tutti convocati. I colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove sul nostro amor. Scusatemi, ma non c'è niente da dire questa sera su una partita di calcio, perché di calcio non c'è stato, è una parodia del calcio, ma non calcio, era... Chiesto subito all'arbitro di interrompere la partita. Ovviamente, come si può giocare in condizioni così? Anche sul 2-1 per noi era possibile fermare la partita, perché non è calcio, è waterpolo con i piedi, forse qualcosa così. L'unica cosa positiva è che non ci sono stati infortunati, ma di calcio non se ne parla, era chi spingeva la palla in avanti un po' meglio dell'altro, è come la lotteria, è caduto, come te lo spieghi, è caduto su pareggio, non è a me che dovete chiedere. Allora non posso rispondere di calcio stasera, grazie a tutti. Vorrei trovare... Pioveva ieri a Bologna, Piero? Abbastanza, soprattutto nel post, ha piovuto ininterrottamente. Ma no, Garzia ha ragione, nel senso parzialmente, che... dai. Sì, parzialmente. È anche la maniera più veloce per uscire da qualche domanda. Qualcuno la sta ponendo, qualche amico da casa, scusate, ad esempio, su come si fa a far giocare i turbe su un campo così. Esatto, no, fammi chiarire un attimo. Garzia ha ragione, nel senso che secondo me non è calcio. Quindi sono d'accordo sul fatto che ieri è stata waterpolo con i piedi o qualcosa del genere. Non ha ragione, secondo me, nel momento nel quale quelle condizioni c'erano, Rocchi ha deciso di giocare la partita in quelle condizioni, appunto nel evadere tutti gli altri temi, nel non riconoscere. Evadere sarebbe da mettere in galera, perché certe cose io penso che non vadano fatte. Senatore, mi fa salutare intanto Antonio Di Gennaro al telefono. Antonio, saluti, buonasera. Ma io volevo aggiungere qualcosa su Rocchi. Antonio, per dire. Lo sentite, arriva molto pagato, senatore, complimenti. Antonio. Ah, ma sì. Allora ci sto o non ci sto? Ci stai, ci sta. Allora io volevo aggiungere. Ma Antonio, senatore Gaspari. Senatore Gaspari e Antonio Di Gennaro. Scusate, facciamo parlare insieme. Parli con Di Gennaro, senatore Gaspari. Allora, carissimo Di Gennaro, io volevo aggiungere una cosa assolutamente inequivocabile anche su destro. Sì, si è visto, parlato, ha fatto gol finalmente. Ecco, io tengo. Non ha insultato, però. Ecco, io sono. Palle, sta roba io sono una persona. Però c'è anche la via di mezzo adesso, sinceramente. Ma mi fate parlare in sto casino, non si capisce niente. Prego, senatore. Ecco, allora io tengo a sottolineare. Sono sportivo. Il comportamento di destro che dopo aver segnato il gol per un inesistente rigore assegnato da Rocky Horror Picture Show, sì, per una simulazione evidente di Giaccherini che andava espulso per doppia munizione, assolutamente, che ne diciate pure lei, sì, ha voluto mantenere un atteggiamento sobrio, rispettoso, sì, quale si conviene ai giocatori che segnano un gol alla propria ex squadra. Pertanto vorrei complimentarmi con destro per questa sua impercettibile, sì, esultanza, sobria, pacata, senza togliersi peraltro la maglietta, le mutande e via discorrendo. Quindi io vorrei dirgli qua in diretta una cosa in via del tutto amichevole, sì, posso? No, ma no, vedi da ma te possi accecare, figlio no, no, è il nostro Andro Mercù, sì, sì. Antonio Di Gennaro ha ragione, cioè, l'anima degli meglior ha ragione, non Gaspari, Luigi Pardo quando dice questo è il campionato che il Napoli sarebbe già in fuga senza quelle prime tre giornate, ma ci andrà presto. Sì, sono d'accordo con Pierluigi, anche perché vista la partita di oggi in Napoli, che veniva ovviamente dopo la sosta, anche l'altra volta ha battuto la Fiorentina in modo importante, nel senso contro una grande squadra, oggi si è ripetuto in un campo difficile, che ne dica la classifica del Verona e il momento del Verona stesso, però ha vinto la grande squadra, primo tempo non è riuscito a trovare gli spazi, secondo tempo sono venuti fuori grandi giocatori, ma soprattutto l'interlocutore di squadra che gioca a memoria, e poi si è visto come ha gestito la partita, cosa che negli anni passati non succedeva, e poi questa squadra non subisce gol da tantissimo tempo, e questa credo sia la certezza, la sicurezza che ha assimilato la squadra di Sarri, e poi insomma Higuain e Insigne ormai sono tra assist e gol, stanno facendo veramente la differenza, e un Hamsik che rispetto agli anni passati non segna tanto, ma è diventato un centrocampista totale proprio a tutto campo. Guarda, lasciando perdere l'Europa League, che vabbè, l'Europa League nella fase preliminare sappiamo che può essere facile e fuorviante, sono 5 partite in campionato senza subire gol, cioè è una roba oggettiva, perché poi in tutto questo il punto debole del Napoli di Benitez era la difesa. Questo punto. Presente Pierre, oggi poi sei l'attacco più forte del campionato, la difesa migliore del campionato, no, è nettamente l'attacco più forte del campionato anche, sì, poi anche, certo, per valutare proprio l'aspetto difensivo, come quest'anno Sarri ha lavorato in maniera meticolosa, anche venerdì ha fatto 2 allenamenti, di cui il primo la mattina un'ora e mezza a lavorare sulla difesa col drone e compagnia bella, mancava Koulibaly, ma credo che Achilli, che si è dimostrato, come aveva dimostrato in nazionale con la Romania, di essere un giocatore anche lui affidabile, ma perché? Perché ormai i meccanismi della difesa sono collaudati, sono perfezionati, e questo credo sia un vantaggio fondamentale proprio per colmare quello che era l'handicap, diciamo così, di questa squadra. Non sottovalutare la Fiorentina, che oggi ha sofferto, però il secondo tempo ha fatto vedere, ovviamente con i cambi giusti che ha fatto Paolo Sosa, di avere un centravanti anche loro veramente molto molto forte, non soltanto a livello realizzativo, che è una squadra che, diciamo così, sotto il piano del gioco è cresciuta tanto, è rimasta sempre a grandissimi livelli, il primo tempo l'ha sprecato anche perché c'era un avversario come l'Empoli, quindi poi aspettiamo l'Inter stasera, però dal punto di vista del gioco mi sembra il Napoli sia la squadra che sta dimostrando continuità, bellezza proprio dal punto di vista proprio del gioco stesso, e anche una capacità di arrivare al gol in maniera molto molto facile. C'è un amico che dice che ha appena fatto una scommessa da 10.000 euro su Napoli vincente scudetto, se vince ti aspetta in Puglia per festeggiare. No, il problema è se non vince l'importante è che non mi aspetti per menarmi, ecco. No, ma io perché poi non sono contro le scommesse in linea di massima, cioè non fate giocatevi quello che volete, cioè, però insomma non sono un appassionato clamoroso, e no, a me sembra onestamente che sia la squadra che ha fatto vedere, considerato che c'era allenatore nuovo e oltretutto allenatore che non avevamo mai visto a questi livelli, quindi non sapevamo se potesse essere pronto per una grande realtà, mi sembra la squadra nella quale c'è stata un'evoluzione dall'inizio, e i pochi punti che ha perso l'ha persi tutti all'inizio, è sicuramente Napoli. Quella che gioca meglio. Io però voglio porre anche un altro tema, che questo oggi abbiamo visto i due bocciati da Conte, bocciati per questioni caratteriali, per quella fuga dal ritiro, stiamo parlando di Insigne e Berardi. Berardi, terza espulsione, tra l'altro folle, in tre stagioni, in due stagioni e mezza, e quindi insomma i limiti caratteriali al momento ci sono tutti. La domanda che voglio fare io invece ad Antonio Di Gennaro e a chi da casa vuole rispondere è questa: possiamo permetterci di lasciare a casa dagli europei Insigne? No, io mi auguro neanche Berardi, perché ho letto l'intervista a settimana di Magnanelli, che è il capitano, un po' insomma il giocatore più rappresentativo e anche con più anni al Sassuolo, e ha detto che Berardi, se anche lui riesce a rimanere diciamo così a livello di testa, che deve migliorare a livello caratteriale, è un giocatore tra i più forti in prospettiva. Ma sì, però l'espulsione di oggi onestamente è poco giustificabile, Antonio. No, infatti ti dico questo, in virtù di questo di Magnanelli dico che è un giocatore da migliorare sotto quell'aspetto, certo. Un po' come i giocatori che hanno del talento, possiamo parlare anche di Balotelli, che ormai è un po' nel dimenticato. Io ho visto l'infortunio, anche lui ha perso gli anni per cose, per il suo atteggiamento fuori dal campo e della non professionalità, perché questo è un discorso anche di professionalità che manca. Insigne è successo un caso secondo me minimo, e quindi credo che non possa non portarlo in nazionale, anche perché è il giocatore italiano tra i più forti in questo momento. Continuo a ripetere, in questo momento storico il più forte, secondo me il più forte giocatore italiano in questo preciso momento. Poi anche il modulo l'ha agevolato, il modulo, perché un po' è ritornato come Zema, cioè un 4-3-3 che non, certo, copre il campo come faceva con Benitez, che ovviamente arrivava anche meno lucido. Bene Benitez, Rafa, bene. Abbiamo tempo di parlarne dopo la pausa, perché c'è il grande Filippo Maria Ricci da Madrid. Scusa, ma la Bari che sta pareggiando 0-0 la stai vedendo? Dice mezz'ora. Come a Cesena ancora doveva carburare, ha fatto gli ultimi 10 minuti veramente in grande pressione, poteva andare in vantaggio, un po' la squadra che va con lenta alternata, che magari ha sprazzi di gioco, soprattutto con individualità come De Luca e Rosina, e poi insomma la Serie B sappiamo che è un campionato sempre molto lungo e difficile, è normale che il Cagliari ha qualcosa in più, ma il Bari credo che sia la squadra seconda per poter arrivare in Serie A senza i playoff. Sarebbero due grandi piazze. Intanto abbiamo anche due candidate alla B. Io so che voi non volete dire. Milan di ieri sera, forse magari che non è stato un bello spot. No, per il calcio. Facciamo così: ometti i primi 60 minuti, fai invece una considerazione sull'ultima mezz'ora, che è quella dove almeno si è giocato a calcio. Sì, anche lì sono stati sprazzi di giocatori di grande qualità e tecnica. Vedi appunto Pogba, lo stesso Dybala e anche Alexandre, che insomma ieri i 26 milioni di euro sono stati almeno assorbiti per certi versi, una prestazione degna di un giocatore che ovviamente per quella cifra dovrebbe ovviamente dare di più e dovrebbe essere anche inserito anche maggiormente. Credo con l'infortunio che avrà potrà esprimere le sue qualità, per, insomma, come dicevo prima, per il prezzo che mi sembra un po' elevato. Però per il resto un Milan che non ha praticamente giocato, il primo tiro in porta di Cerci al 93esimo in recupero nel secondo tempo, e questa dimostrazione che contro le grandi squadre, quando c'è un appuntamento, un messaggio da dare, diciamo così, per crescita e continuità, anche il Milan ieri si è perso. Sì, il messaggio che il Milan oggi è inferiore a quel target di squadre. Grazie Antonio. Ciao Antonio. Grazie a voi. Ciao. Grazie ad Antonio Di Gennaro. 800 24 00 24, ci sono Roberto dalla provincia di Pordenone, Filippo da Milano. Ci fermiamo un minuto e ripartiamo da loro. Parte destro con la conclusione, è il 2-2, il pareggio di destro, secondo gol consecutivo dell'ex per lui, che si leva anche la maglia, impazzito di gioia destro, che corre praticamente nudo sotto la curva dei tifosi rossoblù. C'è Rocchi già col catenino in mano, pronto. Tutti convocati. Convocati. Allora Filippo da Milano. No. Adesso noi dobbiamo parlare del fatto che Capuano sostiene di giocare a Fantacalcio al 92, come del resto anch'io. Avevo Catanezzi in squadra. Io, Mancini, Catanezzi. Maldini, Aaron Winter, avevo di tutto di più. Ma scusa, ma dimmi una cosa, e fate le coppe europee? Come fate a fare le coppe europee? C'è come un fate? Modo per. Ma contro chi? Per io quest'anno, ad altre esempio, persone, di altre no, leghe. Contro quelle vere. Tu, se acquisisci il diritto a fare la coppa europea, vieni sorteggiato con una squadra, segui il percorso di quella squadra, ma attraverso i tuoi punteggi ti costruisci il tuo. È molto complicato, io non l'ho mai vinto nella Champions, nell'Europa League, nella Coppa UEFA, nella Coppa delle Coppe, perché c'era ancora la Coppa delle Coppe. Io sono, non so se più comunque, intrigato comunque, più impaurito, comunque di Higuaín e Insigne. Quindi ragazzi, il Napoli è fortissimo, io ma è l'unico motivo per cui lo diciamo. Dopo 5 giornate, eh? No dai, però oggi mi ha segnato Meggiorini, ieri mi ha segnato Dzeko, potrei anche strappare una vittoria. Prego Filippo da Milano. Pronto, buonasera. Eccoci. Buonasera e grazie per la convocazione. Devo dire che la pubblicità, quando la si ascolta in attesa al telefono, è veramente molto più lunga di quella che sembra. Però si è sempre benedetta la pubblicità, Filippo, sai. Sì, assolutamente sì. No, non mi lamentavo, era solo un commento su Garcia e sulla Roma. Sì. Ci sono due squadre sotto l'acqua, ci sono due squadre sotto il waterpolo, non solo la sua Roma, ed il Bologna ha segnato due gol. Quindi quello che voglio dire è che anche il Bologna ha attaccato, ha portato la palla avanti, per cui lui non può lamentarsi più di tanto. A mio modo di dire. Hai ragione, non era la Rarinantes l'altra, sì. Abituata no, a giocare infatti, a palla cioè, nuoto, allora, ma di fatti, insomma, per carità, ieri non si doveva giocare. Però se l'arbitro decide di giocare, te la giochi. Non giocare. Non è che sì, dici sì, no, vado a casa, prendo il pallone e vado a casa come i bambini. La squadra più tecnica si lamenti per il fatto che le condizioni del campo penalizzano chiaramente i catenacciari, chiamiamoli così, ma non mi sembra di aver visto questo tipo di partita ieri. Poi detto questo, per non perdere tempo, solo un commento sull'Inter di stasera: se finisce 1-0 col Frosinone io regalo la buona. Se finisce 1-0 sono 8 su 13 però sono 30 punti, vabbè. Mi sembra il risultato più probabile. Battuta, però non se ne può più. Vabbè, se non si può, però da primo in classifica mi sembra un po' eccessivo, no? Sì. Soprattutto visti gli ultimi anni, le ultime stagioni, se regala l'abbonamento quest'anno da primo in classifica, anche battendo 1-0 Frosinone, chissà gli altri anni. Credo che gli interisti abbiano vissuto stagioni peggiori. Roberto dalla provincia di Pordenone. Roberto. Buonasera. Buonasera. No, niente, io volevo parlare della Juventus. Prego. Avete fatto il sondaggio se rientra pure. Sì, tra l'altro stanno stravincendo i sì, giocano tutti per far rientrare la Juve. Benissimo, questi non hanno capito ancora niente perché con Allegri non si va da nessuna parte. Parla la sua storia. Sì, sì, ma infatti al massimo si gioca la finale di Champions League, no? Ma la finale no, è andato per fortuna. Certo, il quarto di finale il Monaco ha sbagliato dei gol grandi come una sì, no, ma anche per cui, anche con Real il Real non era il Real, perché se era il Real dell'anno prima ne prendevamo 5 all'andata invece era il Real dell'anno scorso, la Juventus ha passato tutto ma questa è la verità. Siccome va bene per Allegri deve andare bene anche per Conte. Conte ha trovato la neve a Coso In Turchia. Conte ha trovato la neve dopo che nelle prime giornate si era scavato la fossa. Dopo che in 5 partite ne aveva vinta una. Io ero presente sul posto a Istanbul e ho detto, mi ricordo benissimo, che sicuramente la Juve non era stata fortunata perché quel tipo di terreno sicuramente non agevolava la squadra più tecnica, un po' un discorso simile a quello che abbiamo fatto per quanto riguarda Bologna-Roma. Quindi la Juve sicuramente lì non è stata fortunata, ma è uscita perché ha vinto una partita su 6 in quel girone. L'anno scorso Allegri è arrivato in finale di Champions, non può essere che se Allegri vince è sempre merito di qualcun altro, cioè mi sembra ingiusto. Poi se Allegri vince è fortunato, se invece Conte è sfortunato, no, quindi esce al primo giro. Conte così. Ha dei meriti, sicuramente Conte ha costruito questa Juve e Allegri ha fatto una grande stagione anche grazie al lavoro di Conte prima, questo è vero. Scudetto, Coppa Italia e finale di Champions League, che deve fare? Però io sono finale di Champions dove sull'1-1 ci può essere un rigore, perché sono convinto che gli juventini continuino a non apprezzare, non amare Allegri. Sarebbero anche pronti, qui lo dico, a riaprire le braccia per accogliere Conte a luglio. Ma è giusto, ma lo capisco perfettamente. Sperate che andiamo a San Siro. Marco Barzaghi, Mediaset. Marco, ciao, buonasera a tutti. Sei tonico, Barza? Con chi la fai stasera? Chi c'è? Raccontaci la squadra. No, ma intanto vi volevo dire, ci sono gli artificieri che stanno esaminando con grande attenzione sia all'interno dello stadio che all'esterno, quindi grande attenzione. Però per Prassi, evitare quel... no? Tanto perché cioè, stanno facendo esatto. quel, un lavoro un po' di... più di Prassi, ma insomma, no, no, certo, ci dobbiamo dire, ci dobbiamo allarme. Okay. Allora, abbiamo visto tra le varie ipotesi scorrere una formazione dell'Inter di questa sera senza Perisic con Palacio, Jovetic e Iacardi. Sì, è una delle ipotesi, però chiaramente ormai Mancini ci ha abituato a sorprese anche dell'ultima ora. Gli stessi giocatori devono aspettare la riunione tecnica che si sta svolgendo proprio in questi momenti prima di sapere se giocano o non giocano, o se quello che è stato provato ieri, quindi Palacio insieme a Jovetic e Icardi, può essere veramente la soluzione giusta. Io ho qualche dubbio, anche perché poi mettere Jovetic come trequartista mi sembra che non sia la sua posizione. Più probabile un 4-4-2 con Jovetic e Icardi là davanti, e vedremo se si chiama Frosinone la soluzione ai problemi di Mancini a questa coppia che sulla carta doveva essere una delle più forti del campionato e poi in pratica ha segnato solo un gol contro il Chievo. Senti, se dovesse vincere l'Inter, poi mi vai a chiedere qualcuno per domani a Tiki Taka, uso questo sicuramente. Comunque, se dovesse vincere l'Inter stasera col Frosinone, bisognerebbe fare attenzione a questa squadra che di solito falliva queste partite già scritte sulla carta negli ultimi anni, grandissime delusioni proprio qui a San Siro. Se dovesse far bene stasera, attenzione all'Inter. Sì, tra l'altro credo che Mancini firmerebbe anche per l'ottavo 1-0 senza farsi grossissimi problemi. Non ha problemi del bel gioco, gli piacerebbe vedere più gol, ma se continua a vincere così mette la firma subito. Giocano tutti Felipe Melo con Dogbia e Medel, cioè i tre diffidati in vista di Napoli lunedì prossimo, in quello che insomma potrebbe quasi essere un incrocio scudetto. Riposa Medel, Felipe fuori Melo Medel. E con Dogbia giocano, l'ha detto Mancini, quindi rischia con loro due, non rischia invece Medel, che per lui è insostituibile e soprattutto lo sarà a Napoli, in una sfida che varrà il primato nella classifica. Ecco, credo sia successo anche prima di Inter-Roma che Medel diffidato è stato l'unico a rimanere fuori. Aiutami Marco se mi sto sbagliando. Cioè, questo significa che dei centrocampisti è il più importante per Mancini. Sì, sì, l'ha detto. Che poi o giochi in difesa o giochi a centrocampo, è un giocatore a cui lui non può fare a meno per temperamento, carisma, grinta in campo, questa scheggia impazzita che va da ogni parte a recuperare palloni, per lui è fondamentale, l'ha detto, vorrei 12 medaglie un Messi, mi basterebbe per andare avanti. E pensa chi Messi lo tiene in panchina, se non si fa grossi problemi. Grazie Marco. Buonasera a tutti. Barza, ricordati. Grazie Marco Barzaghi. C'è Agnoletti, ex portavoce di Renzi, attuale portavoce di Nardella, che twitta, dai, Juventino, insomma non è una notizia, twitta: ho amato Mister Conte, ma Allegri da noi Juventini merita solo affetto e stima. Non so se sia la maggioranza dei tifosi della Juve. Non è la maggioranza. Non penso sia la maggioranza comune, però noi riceviamo e, come si dice, riceviamo e gentilmente pubblichiamo. Sì, sì. Comunque non è la maggioranza, anzi credo di questo tema nei prossimi mesi avremo modo di parlare. Marcello da Rimini, Marcello. Ah, buonasera, grazie per la convocazione. Complimenti a Zenta che ha portato l'obiettività di tutti i convocati anche in TV. Cos'è che volevo dirle? Mi riaggancio a quello che ha detto Barzagli. Secondo me a questo punto, in questo attendere la Juve, l'Inter un po' fa schifo, però l'Inter è fuori da quel discorso, scusa Marcello, l'Inter è fuori da quel discorso, l'abbiamo premesso alle 17.05, manca l'Inter e magari va a più 9 sulla Juve, il resto è tutti gli altri stanno aspettando la Juve, ma si rivaluta il Napoli, no? Si rivaluta, io credo che è assolutamente legittimo che si rivaluti. Ripeto, Mancini firmerebbe oggi per fare l'ottavo 1-0 e per risentire per una settimana tutti i discorsi sulla qualità del gioco, gli attaccanti che non segnano, Jovetic, Icardi. Poi è vero, Pier, che alla lunga però serve anche la qualità del gioco, perché tu non puoi continuare a vincere con un tiro. Sì, sì, io sull'Inter veramente faccio fatica, nel senso sospendo il giudizio, perché ci sono dei segnali di questa squadra che sono molto interessanti in prospettiva. Cioè l'Inter ha una grandissima, secondo me, abbondanza di giocatori, Infatti spesso fa dei turnover abbastanza clamorosi proprio perché sono tanti, ha dei margini di miglioramento enormi perché è in questa situazione di classifica ma senza avere avuto quello che hanno fatto per esempio Higuain e Insigne nel Napoli. Jovetic è partito molto bene però poi si è fermato, Ljajic si è visto pochissimo, Icardi non segna mai, non segna poco, quindi questo tipo di situazione nel caso dell'Inter è abbastanza clamorosa, però è anche vero che di contro ci sono dei segnali che dici non è che andano potrà continuare così per tutta la stagione, no? Per esempio, per fare un quindi sono molto curioso. Sono molto curioso e penso che sia con margini di miglioramento. Questo non può essere che un buon segnale, Pierluigi. Tanto a grande richiesta. Ad aspettare che l'Inter perda, ma di fatto è una squadra estremamente solida. E il fatto che Mancini riesca a tenere questi risultati facendo il turnover vuol dire che ha comunque la squadra in mano. Sì, vuol dire anche che non ha forse ancora trovato il profilo giusto dell'Inter. Comunque, a grande richiesta, dov'è Filippo Maria Ricci? Scrive Roberto al 349-238-6666. Noi andiamo in traffico e andiamo a cercarlo a Madrid. Traffico. Come posizione, secondo me, abbiamo fatto qualcosa in più perché credo che ci manchi ancora qualcosa, dobbiamo realizzare di più, deve essere una squadra che deve fare più gol, questo è una cosa che dobbiamo migliorare, poi il resto la squadra è abbastanza solida. Tutti convocati. Tutti convocati. Tocó, attenzione al quarto, lo tiene Suárez, Suárez para Neymar, Suárez define, Suárez, gol, gol, termina. Pitazo final, dice el árbitro, pitazo final del partido, el clásico le pertenece al Barcelona, Vica. Pañolada, pañolada blanca. Pañuelos blancos. Una rivolta di popolo ieri al Bernabeu. Filippo Maria Ricci, ciao Filippo. Ciao Fil. Buon pomeriggio a te. Bueno, che passa, che passò, che passò il nostro dibattito su Casemiro, Se ci avesse ascoltato, esatto, perché il calcio è complicato dalla presenza dell'avversario, dell'allenatore, è drammaticamente complicato la presenza dell'avversario, in qualche caso anche del proprio allenatore, però, ma anche del proprio presidente, Del proprio presidente, bravo Gio, bravo, del proprio presidente più che del proprio allenatore, dai, perché ieri gli ha fatto la squadra che voleva lui, capito? Dice qui devono tienen che jugar los buenos, quelli buoni, capito? Devono giocare con Bale numero 10, spiegami tu che senso ha. Ma ci sono state due cose totalmente incomprensibili in questo weekend: Sassari che manda via l'allenatore campione d'Italia, Meo Sacchetti, e il Real Madrid che non manda via il modo in cui il Real Madrid ha fatto bene, mi sta simpatico, però ragazzi, tanti simpatici. Che succede? Cosa è successo? Cosa succede? Che passa? È Florentino? Filippo? Non teniamo solo a Filippo? Bueno, teniamo solo a Filippo. Adesso su una intersettazione ambientale. Adesso recuperiamo Filippo Maria Ricci. No, però dai, una cosa, il Real di ieri, una cosa fuori dal mondo. E però posso dirti una cosa? Benitez è il quarto allenatore consecutivo del Real Madrid a perdere al debutto nel classico. E c'è anche chi ha fatto peggio. C'è anche chi ne ha presi 5. Ma sì, Mourinho. Sì. Perché ha perso contro il Barcellona, Pellegrini. Ha perso Mourinho, ha perso Ancelotti. Benitez in questo weekend ha perso due volte. Ha perso ieri e ha perso oggi. Cioè, visto che noi siamo comunque italiani e quindi insomma il paragone lo facciamo su quello che abbiamo visto e su quello che stiamo vedendo, e insomma la differenza fra Benitez e Sarri è come non vengono in mente solo cose volgari, quindi sto fermo. Però insomma la differenza è enorme ed è un paradosso, perché nessuno discute la carriera di Benitez, che è stata per tanti anni una carriera vincente di un grande allenatore, però sarà anche di discutere i metodi e i modi, appunto, però si potrà dire che l'anno scorso il Napoli ha fatto ridere e quest'anno il Real sta facendo ridere, e appena lui se n'è andato con un paio di mosse, una delle quali secondo me importantissima, che è Reina, ma complessivamente con la stessa squadra Sarri ha fatto un capolavoro, sta facendo un capolavoro, cioè è evidentissimo. Poi l'anno scorso Koulibaly è lo stesso, un Napoli spaccato con i giocatori che se ne volevano andare, è arrivato a Madrid, stessa cosa, subito dai. Cristiano Ronaldo ha cominciato a mettere muso, abbiamo recuperato, eccoci, sì, esattamente questo è il problema, che ieri la squadra non giocava per lui, questa è una squadra strana adesso, che non gioca nemmeno per il presidente, però quando Carlo Ancelotti ha avuto problemi col presidente nel gennaio, che poi porta alla decima, lui si compatta con la squadra. Adesso questo Real Madrid con chi si compatta? No, ma è chiaro che non l'ha mai voluto quell'allenatore, non l'ha voluto neanche il presidente, allora, chi se l'è preso? L'ha preso lui perché non aveva scelta. Dopo aver fatto il peccato capitale nel cacciare via Carlo, che non lo doveva cacciare. E dopo non è che ci sono tanti allenatori disponibili. Sì, se tu ne mandi via uno di quel livello ogni due anni, a un certo punto finiscono, e quindi si è dovuto prendere Benitez, che peraltro reduce da una stagione insomma che va letta oggi alla luce dei risultati del Napoli. Oggi credo i siti spagnoli scrivono sostanzialmente che Benitez è a fine corsa, poi può accadere fra una settimana, un mese o tre, ma il destino è segnato. Sì, è così, proprio per questo, perché non è apprezzato dal presidente, non è apprezzato dai giocatori, quindi che senso ha continuare a tenerlo oggi? Ma che senso aveva prenderlo, ragazzi? Ma di che stiamo parlando? Ma poi lasciare Ancelotti per prendere Benitez dopo quello che ha fatto Benitez a Napoli? Ribadisco, non è Benitez che viene fresco della vittoria in Champions League con Liverpool o che fa cose importanti, che ha fatto della sua carriera, perché ha vinto col Valencia. Cioè, non stiamo discutendo il segno definitivo, la sintesi di 20 anni di carriera, stiamo discutendo il periodo. Il periodo è catastrofico. No, non aveva senso prenderlo, però non c'era nessun altro, e adesso mandarlo via a novembre, dopo quando hanno fatto 16 partite, vuol dire anche ammettere il proprio errore. Ma comunque se non lo mandi via adesso, lo mandi via tra un mese o due mesi o tre mesi, non è la stessa cosa, e anzi perdi del tempo, visto che però... è totalmente sfiduciato. Cioè, dove vai con Benitez? No, da nessuna parte. E allora, a quel punto sono le classiche condizioni in cui cambi l'allenatore, cioè forse l'unica condizione in cui sei giustificato, e anzi è quasi il dovere di cambiare l'allenatore. Ma Zidane è pronto, Filippo? Oggi rideva, sono stato a trovarlo. Rideva? Sì, rideva. E dice che sta molto bene a Castiglia. Sì, però... sta benissimo. Sì. Diciamo che aspetta solo che lo chiami. Ah, ecco, appunto. Vabbè, ma... perché è rimasto lì? In Serie C. Chiaro, perché gli hanno detto alla prossimo giro tocca a te. Sta bene a Castiglia, ma ha messo sotto carica il telefonino per evitare di perdere la chiamata. Posso dire, Zidane allenatore è come Del Piero CT della nazionale, cioè stiamo parlando di leggende assolute della storia del calcio, enormi, che però insomma io non lo so, non lo rischierei, ma perché il Real Madrid non prende un allenatore? Cioè, no, non lo so, ce l'aveva. Perché ce l'aveva. Non so, chi è che prende di quelli fuori? Ora che si è piazzato Klopp, ad esempio, che avrebbe potuto in ipotesi essere un tecnico buono, chi c'è fuori? Non ce ne sono, no Filippo? Anche in proiezione. Non c'era scelta, questo era il problema, che non c'era scelta. C'è Ancelotti. C'è Ancelotti, lo richiami? Sì, c'è Ancelotti, ma credo non sia d'attualità. C'è Cappello, doble pivote, Filippo, equilibrio, il football c'è equilibrio. Ma senti, invece, a proposito di Capello e Leonzio e un po' di cose del passato, ma c'è stato, che ha fatto Calderon, vecchio presidente, ex presidente, quello che mandò via Capello? Dopo... Sì, ma ha fatto un tweet ieri? Che dà delle stoccate a Real Madrid. perché lui, diciamo, gli hanno fatto causa, in realtà ha vinto lui. È finita la puntata e soprattutto noto con piacere che hai preso il mio telefono, perché non ti si sente più. E quindi è tutto molto bello, finisce nel migliore dei modi. Ovviamente noi Benito ci vogliamo bene, però, sì, insomma, noi vogliamo bene, ma tanto... sì, però mica gli ha fatto niente, anzi, domani, è anche molto simpatico. Domani dopo le 14 tutti convocati sull'esonero di Benitez. Cordiale saluto, insomma, a tutti, diciamo. Pagnolata per Rocchi. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Fresani, Valeria Bernardi in regia, Andro Mercur, abbiamo sentito con le sue mille voci. Domani dopo le 14 oppure domenica dalle 17 alle 19. Ciao. Buonanotte. Allora non posso rispondere di calcio stasera, grazie a tutti.